depresso. Principiato, arrivamo a darci del tu. Verissimo, pece, verissimo, menagramento, verissimo, morte. Mentre che lo cercavano sui letti, vicini e gentili, quasi fossero già bagnati già dalle salive, dalle trausce, dalle biancastre con le sfacenti sul collo, le sfacenti in giallastre poco più lievi degli uomini, nel chiaro di occhio. Anzi, specializzato, smanciato dal carcinoma, ridotto a scheletro, l'ultima poltiglia gialla sulla bocca, e poi sigillato nella cassa, e lui tiene in me davanti di lei la cassa, accusa il silenzio, perché? Perché? Risponde, Cristo, un cristiano, da perché? Un'altra di bronzo era stata infissa di sopra il coperchio, chissà da chi e negli a me. Bisogni per la tua farinetta. Mamma medica mia, no! La verità! C'è la gattina, usala! La che? La che? La che? La che? Gino, la cosa fa qui? La che? La che? La che? Mangia! Mamma! Mangia! Faranza per me! Mangia! Perdono, mamma! Thank you. Thank you. mia città, mia serrata, e se mi sono tutto fuori la città, fuori, di senza volontà, fuori, di senza idee, fuori, di senza senso, fuori, di senza senso, fuori, quelli con la pelle sputata e quelli con la pelle dentro martello. Se li va, e c'è un fratello, mi riva di te, ma capisce di te, contro la cioccolata, però invece preziosissimo biancone, niente. È venuta anche la cosa. La prima volta super lenai il nirvana fu come i primi passetti che Paderbeha fece che si rivelano il passo primo il passo secondo il mamma alla semplice che va in marmellata là dove così va del dolore il soffrire del nostro orribile che era poi un travestito. credomi, eccoli, capami, eccoli, la cellula, la macchina negra, la porca, che già tante volte, tante, in via dei propri me, thank you. ogni segno che domandavo a lei di tenerezza. Lei se l'è domandato mai? Cercatelo! Chi? Cercatelo! Liquida, come fosse Grazie.